24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Se dobbiamo vincere le elezioni andremo da Napolitano e lo costringeremo a dimettersi e andare a Cesano Boscone insieme a quell'altro, così si tirano un po' sul morale invece di invitarlo lì. Questa è la formula di Beppe Grillo. Se vinciamo, diciamo a Napolitano di andare a Cesano Boscone, alla Sacra Famiglia con Berlusconi. Beppe Grillo ieri era al Monte Paschi, all'assemblea dei soci. A un certo punto Profumo, il presidente del Monte Paschi, gli ha detto: lei la vedo sempre così emozionato, stia attento che le viene un colpo, stia attento. Vabbè, buongiorno cari italiani, alle 6:31 minuti. Noi iniziamo sempre con Benigni, è la 52esima settimana decisiva in corso per la riforma elettorale. Ma pare che Renzi dica ai suoi: lo vedo in bilico questo Italicum. Ma come? Ma no, ma come in bilico? È la 52esima settimana decisiva. Ma è quella decisiva, 52esima, ma decisiva, ma com'è possibile in bilico? No, no. E noi che ci credevamo a questa 52esima settimana, eravamo lì e invece pare che sia in bilico. Potrebbe saltare tutto con questo Italicum, la riforma elettorale. Confideremo di più nella riforma delle province, anch'essa, anzi l'abolizione delle province, anch'essa la 52esima settimana decisiva. Ma voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia e il Parlamento che può aprire ufficialmente alle 6:32 minuti. Eccolo, io non lo voglio il caffè della ministra. Ah. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della ministra, noi non lo vogliamo dalla ministra, brutto cretino d'un Milan. Allora, dove eri finita Paola Saluzzi settimana scorsa? Ma ero qui che pensavo a questa signora che ancora inveisce contro il nostro Alino Milan. Buongiorno comandante. Buongiorno a tutti. Ero io che ero in vacanza, effettivamente mi sono confuso un attimo. Noi ci siamo anche concessi una settimana sì, di parziale relax, ma siamo pronti, sai, su che tutti tu... i temi, su tutti gli argomenti. Certo, tu hai detto la parola comandante, sai che... Intanto saluto il nostro direttore Luca Dini, eccolo lì. Dove eri anche tu, Luca Dini, direttore di Vanity Fair? Dove eri? Dove sei finito? Umbria. Ah, in Umbria. Vabbè, lui ha risposto, io ero in Umbria, vedi? Giustamente, era in vacanza anche lui. Tu hai detto la parola comandante, cara Paola. Sai che, sapete oggi chi viene intervistato? Un'intervista che io mi stavo gustando parola per parola sul secolo XIX, pagina 7, un'intera pagina. Cara Paola, sai chi parla? Il comandante. La verità, tutte le verità del comandante. Chi è il comandante? Schettino. Oh, Schettino. Tutte le verità? Tutte le verità. È tutta colpa dei miei ufficiali. Ti dico questa. Guardate, allora... C'è l'ufficiale che subentrava e non si capisce che facesse. Il terzo che guardava il radar. Il primo che faceva le misurazioni. Il timoniere. Nessuno affiatato. C'era gli scogli e nessuno affiatato. Capisci? E Gesù Cristo è morto di raffreddore. No, vabbè, ma... straordinario. Dicevo questo... E tutte che non mi guardavano, e nessuno, andavamo sugli scogli e nessuno affiatato. Ecco, questo è il comandante Schettino. Va bene, dopo la leggeremo in rassegna stampa. Ma viene in mente il comandante dell'Andrea Doria, così un momento, un flash. Ma andiamo avanti. Sì. Allora, io voglio iniziare invece della solita politica, eccetera, da una notizia che viene messa in prima pagina dal Corriere come titolo di prima pagina, anche Repubblica, pagina 2-3, ed è questa. Non so se avete saputo. Ieri sera ci sono stati 5 minuti di applausi, sì, di standing ovation al convegno del SAP, che è uno dei sindacati di polizia, per i 4 agenti. Per la verità ce ne erano presenti solo 3, la donna agente invece non c'era, che sono stati condannati in via definitiva per la morte di Federico Aldrovandi. Luca, tu dicevi sì, sapevi, hai saputo di questa notizia. Insomma, Renzi ha chiamato poi la madre di Federico. La madre di Federico, tra l'altro, dice oggi a Repubblica: sono nauseata, una cosa schifosa, sono eversivi. Che cosa vi può suscitare questo, Luca? No, semplicemente che è morto un ragazzo di 18 anni, e che cosa ci può essere da applaudire? L'ho trovata una cosa non di cattivo gusto, obiettivamente disgustosa. Ma loro dicono, a prescindere dalla realtà, dalla verità, diciamo, giudiziaria, non è quello il punto. Che peraltro dice che c'è stata una condanna. Ma allora, il presidente del SAP, tra l'altro l'abbiamo avuto settimana scorsa, proveremo anche a chiamarlo al volo alle 8:30, dice questi agenti hanno fatto per un reato che non meritava 6 mesi di carcere. Questo è il motivo della solidarietà. Non sono i primi, non sono gli unici, non sono i primi. Cioè, e comunque ribadisco, che cosa c'è da applaudire? No, ma infatti non si applaude alla morte di un ragazzo. Questo comunque, certo. No, ma effettivamente a me ha scioccato molto. Devo dire che anche sui giornali i commenti sono di questo tenore. Paola, tu. È un bruttissimo braccio di ferro tra chi si è ritrovato in questa situazione, ha pagato. E leggevo stamattina, proprio sulla prima pagina, in particolare mi sono dedicata a Repubblica, chi dice hanno avuto la vita rovinata e chi la vita non l'ha più, e rimane poi il dolore di una madre, ed è un braccio di ferro privo di senso, privo completamente privo di senso, perché 5 minuti di applausi sono una reazione da parte di dei colleghi presenti? Certo. Perché? È la domanda. No, perché? Ma infatti. Forse le parole pesano di più degli applausi. Devo dire che a me ha colpito molto. Poi la madre di Federico, che ha sempre fatto una battaglia, l'abbiamo ospitata anche varie volte a Radio 24, la sentiremo sicuramente anche oggi, ha sempre fatto una battaglia abbastanza composta. Per quella che è una tragedia invece che è capitata, al di là di quello che pensiate, eccetera, non lo so, si ritrova ogni volta, come dire, al centro dei riflettori, come se il proprio dramma venisse, no? In qualche modo. C'è una sguaiatezza, che non è la prima volta, poi, perché ricordo che ci fu una manifestazione, adesso lo ricordo bene. Sì, è vero, a Ferrara. E devo dire, purtroppo anche qui ha avuto il suo ruolo anche la politica nell'aizzare questa sguaiatezza, che non ha senso. Devo dire sì, è una prima pagina che mi ha colpito, perché mi ha colpito positivamente, nel senso, non so se tu Paola cosa ne pensi, cioè aprire il Corriere della Sera in questo momento in cui Solleva la polemica, solleva la discussione, l'importante è che poi questa polemica la si faccia proseguire. E poi si arrivi allo spegnimento della polemica stessa. Dico questo perché? Per evitare poi le targhe buoni e cattivi. Allora, sicuramente tutti cattivi o sicuramente tutti buoni. È importante parlarne, tu ne parlerai oggi alle 8:30, saremo lì, ci seguiamo sempre Alessandro, tutta la settimana, anche quando non si è presenti, per fortuna nel tuo programma. Però l'importante è che se ne parli, perché se no si rischiano poi dei... Infatti la madre di Aldrovandi oggi... parla di poliziotti con i quali lei è in contatto, con i quali dialoga, e ribadisco, forse più che la reazione emotiva legata agli applausi, sì, sarebbe meglio seguire una reazione di pensiero legata alle parole, perché allora uno potrebbe dire perché ritiene ingiusto essere stato 6 mesi in carcere, perché ritenga ingiusto essere stato punito in questo modo fino a un giudizio di Cassazione. Ecco, le parole varrebbero di più. Ma certamente. In tutto questo, che dire di questa campagna elettorale? Io sono da giorni, perché a età ieri c'era Maria Dinolfi che va ripresa a dire vabbè, ma sono tutte uguali le campagne elettorali, infatti fanno tutte schifo, cioè questo è pericolosa, perché su questo ci sono dei populismi. in Europa molto pericolosi, che ci devono far ricordare gentilmente che il 25 aprile non è una festa per fare ponte, e che il 24 marzo non è un giorno qualunque, per chi vive a Roma e non solo, si va alle Fosse Ardeatine. Cioè, ricordare cosa è stato. In generale, ovunque, Katyn come altre situazioni in Europa, ricordare che i populismi hanno portato molta sfortuna e danno. No, ma assolutamente sì. Però a proposito di populismi, c'è uno che rischia grosso, che è appunto Silvio Berlusconi, almeno raccontando ai giornali, perché sta alzando il tiro con le dichiarazioni. Ieri, per esempio, era dal nostro mitico Federico Novella, che salutiamo, abbracciamo a Mattino 5, spesso ospite qui al Parlamento, che ieri lottava con Silvio Berlusconi, il quale ha fatto dei paragoni soft, sentite. Grillo mi fa ricordare personaggi che si sono presentati nella storia. Per esempio Robespierre, francese, tagliatore di teste. Voleva imporre uno stato di virtù, è finito nel terrore, è finito con la ghigliottina. Ma andiamo anche più vicini a noi, Marx, con Lenin e Stalin, che diedero vita al regime comunista, che è stato il regime più accentrato, più criminale, più sanguinario della storia, e sono arrivati i gulag russi. E questo è il rischio che corriamo con Grillo. E questo Grillo è esattamente il prototipo di questi signori, Hitler compreso. E non dobbiamo sorridere. Insomma, Luca, dice non dobbiamo sorridere. Tra l'altro Marx sarebbe, vabbè, al di là di questo, e non dobbiamo sorridere, per carità. Quindi il paragone erano serissimi, Grillo come Robespierre, Hitler. Tu di questa campagna elettorale che pensi, caro direttore? Tutto il male possibile, ecco. Perché anche in questo caso in realtà è giustissimo quello che dice Paola, bisogna ricordare il passato, però non così, cioè non in modo così strumentale e quando ci pare e piace. Le cose che sono state dette questi giorni sui tedeschi, sulla Merkel, su tutto, sono assolutamente, secondo me, disgustose, perché ciniche, perché in realtà motivate soltanto dalla voglia di prendere 4 voti. Insomma, sarebbe bello che alla fine qualcuno pagasse il conto di quello che dice. Sì. Che poi voglio dire, la campagna elettorale, brutalmente, lo so, non voglio fare l'avvocato del diavolo, ma è quello, no? O no, Paola? Cioè, uno cosa deve fare? Purtroppo. Guarda i toni di Grillo, poi ci sono le risposte, insomma, perché diciamo anche questo, i toni sono agitati nel caso Grillo Berlusconi da entrambe le parti, potremmo dire, nel senso che le parole volano come dei frisbee, e quindi di conseguenza tutto prende un'accelerazione notevole. Io sorrido perché tu citavi poc'anzi appunto il collega del mattino di Canale Mitico. 5, perché mi viene sempre da pensare quello che ha detto Romano Prodi prima delle elezioni del febbraio, no, le ultime elezioni politiche vissute dal nostro paese, che ha detto Berlusconi in silenzio, Berlusconi che tace, Berlusconi ormai non lo dite mai Berlusconi perché vedrete che cosa sarà pronto a fare, e sta facendo la sua però adesso teme no ma certo, ma teme perché potrebbe il tribunale di sorveglianza sta dicendo attenzione, forse sta dicendo qualcosa di troppo, un altro colpo di scena, certo, è rischio, esatto, perché questo è evidente. La vera notizia è che Silvio Berlusconi, come racconta il Secolo XIX, è andato in gran segreto per un'ora a Cesano Boscone, un'ora che non gli verrà scontata comunque nella pena, è andata a fare un sopralluogo ed è preoccupato da una cosa: ma avrò il mio ufficio, avrò il mio bagno all'interno di Cesano Boscone, e quindi il Secolo XIX la mette così, preoccupato per il cesso, nel senso che vorrebbe un bagno tutto per lui all'interno della Sacra Famiglia. Ma voglio farvi questa domanda: tu, cara Paola, con 80 euro che spesa fai? Sai che c'è tutta la polemica su... ha ragione per te Pina Picerno. Sono due settimane, attenzione, Pina Picerno, stiamo parlando, del PD. La Picerno ha fatto una considerazione giusta, ha detto vivo da sola. Sì. Allora, se tu hai, parlo, voglio dire, a casa Milan, due bimbi, sì. O hai comunque ragazzi, insomma, sì. hai una situazione. Non scendo neanche che sono già in edicola a spendere due euro subito così, pam, per le figurine, allora, le figu. Ecco, cioè, allora, subentrano, è chiaro, altri tipi di costi. Però con un atteggiamento oculato, sì. E ribadisco, privo di considerazioni politiche, sì. privo. Ah no, siamo in par condicio, noi siamo privi, noi siamo sempre privi. Allora, certo, se poi devi prendere sempre della mia meravigliosa farmacista Federica il bitone di vitamine, devi andare a fare delle altre spese, è chiaro che 80 euro se ne vanno. Per esempio, allora Paola, ti dico, Peter Bescapè mi scrive, perché l'Alpino mi scrive, 80 euro sono due settimane di cibo per gatti, cioè, già solo con i gatti, cosa mangiano i tuoi gatti? No, Peter? Non esageriamo, ho capito, il caviale, gli dai il bombardino ai gatti. No, c'è questa polemica perché Pina Picerno del PD ha detto 80 euro si fa la spesa due settimane, apriti cielo, ma cosa mangia la Picerno a casa sua? Oggi fa due interviste a dire io sono casertana, cucino benissimo, tu caro Lucadini 80 euro ci fai la spesa? È una polemica da social network, sì, cioè da persone stanno abbastanza bene, ecco. Secondo me la Picerno ha ragione, bisognerebbe ricordare che in Italia ci sono molte persone che purtroppo si devono far bastare la spesa di 40 euro a settimana. No, infatti, chiaro che non mangi sushi, ok? Ecco, mettiamola così. Ecco. Dire, io lo dico in maniera brutale, sono andato venerdì al mercato, così lo diciamo, e ho speso 11 euro di frutta e verdura, ma è vero, con mia moglie abbiamo frutta e verdura per un bel po', per qualche giorno, esatto. 11 euro, cioè, voglio dire, poi uno, non so, il latte, il pane, è chiaro che se volevo andare dal fruttivendolo di Via della Spiga, spendevo un po' più di 11 euro. Ma io sto scaldando i motori per l'altra notizia, che non ha a che spartire con... Cioè, vogliamo dirlo? Devo andare... Quel puzzone! Ma chi? Puzzone di Donald Sterling! Razzista, razzista! Aspetta! NBA e dovrà pagare 2 milioni di dollari di multa, puzzone, tifoso razzista. Allora, tifoso. Fermati, do il traffico e la segreteria e poi parliamo del puzzone schifoso. 24 mattino. A proposito di De Mita, non escludo il ritorno, tutto il resto è noia. Scusa, ma questa telefonata la pago io? Perché se per favore mi puoi chiamare mi faresti piacere, avrei bisogno di parlarti, grazie. 9 mesi di servizi sociali sono troppi per Berlusconi. Basterebbero 40 giorni a San Vittore, 40 di, 40 not a San Vittura a Ciaparbot. Così si impara a parlare not. Io non ne posso più di vederlo in tutte le salse in TV e sui giornali con le sue affermazioni deficienti ed offensive e il suo sorriso di merda. Adesso ha deciso di fare l'animalista e allora si cominci col mettere a lui la museruola ed a fargli fare la guardia ad Arcore. Lì potrebbe abbaiare quanto vuole senza imporci i suoi latrati. La mia Paola Saluzzi, ho una voglia di sentirla e di vederla. Meraviglia delle meraviglie. Ciao Paola. Ciao Milan, finalmente sei tornato, Ti li sei spesi quelli due urrini che ci avevi da parte, Ma sta attento che Befera, vigila, non aspettava altro che controllate e chiedete conto di come l'hai fatti. Sta attento che poi per punizione ti metterà in ginocchio sugli sceci crudi che vai sempre cercando, ma non con i garzoni lunghi, con i garzoni corti che te deve fare più male, Salutami un po' tanto quella signora simpatica del mercurdì e che se non ero ignorante gli avrei fatto una poesia, Salutemela tanto. Ciao Milan, che te pazzino via fuoco. Tornato Paoletta e Angelino, che te fossero pia fuoco, grande nostro contadino, è lui quello della zappa, è lui che te fa. Scommi- Che te possi non piglia fuoco? La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg. A zappa Lucampo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro. E a cena una minestra scunnita. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Allora... il puzzone schifoso razzista che Paola Saluzzi è Donald Sterling, proprietario dei Los Angeles Clippers, o ex proprietario evidentemente, colui che ha detto, cos'è che ha detto alla fidanzata, non frequentare i neri, no? Non voglio che li porti, sì, alla, sì, partita, non è opportuno che me lo porti alle partite, è nero come la pece e la forza che si porta, sì, presso. Si tratta di Magic Johnson, ma potrebbe essere John Smith qualunque. E l'hanno buttato fuori, grandissimi, i suoi giocatori sono scesi in campo con le maglie alla rovescia per non avere il numero, per non far vedere il nome della squadra, per non far vedere gli sponsor, l'hanno mollato tutti, perché lasciamo perdere il perché poi questo sia successo, bisognerebbe studiare perché una donna di 42 anni più giovane di questo sì, si mette con uno che pensa così, esatto, all'orrore fosse lì, ha registrato tutto, vabbè, quelle poi sono come dire guerre interne personali, ma l'hanno sbattuto fuori a calci nel sederone. No, ma infatti Luca, questo succede nella tua America, no? Tu che la conosci, la ami, ci hai vissuto, ma com'è possibile cacciare, prendere il proprietario insomma e cacciarlo? E beh, sostanzialmente gli hanno reso la vita impossibile. La cosa brutta è che in Italia gli avremmo fatto i famosi 5 minuti di standing ovation. Dici, no, vabbè, magari ci sarebbe state delle critiche, ma certo non si sarebbe arrivati... Non avrebbe mai pagato così, questo è chiaro, questo è chiaro. Il peso delle parole, il significato è questo, cioè che non importa se sei stato intercettato a tradimento, poi una volta che pubblicamente... è venuta fuori una tua posizione di quel tipo, hai perso la faccia, hai perso la squadra, appunto. No, ma il dato di fatto è questo, ecco, in questo soprattutto il messaggio che tu dici, in Italia non sarebbe successo non sarebbe successo mai, in Italia non si paga mai per quello che uno fa o che dice, ma anche per quello che uno fa a volte o si paga, oppure c'è questa cosa che c'è gente che paga per delle cose assurde, c'è gente, non c'è mai un criterio logico, oggettivo, mi sembra di poter dire. Cioè, questo avviene nel nostro paese, avviene anche in altri paesi. È stato toccato lo sport degli sport, è stato toccato anche una storia di un paese che la schiavitù l'ha conosciuta e nel quale se ci sono dei temi sensibili e delicati, se uno sbaglia su questi temi perché pensa delle cazzate, diciamo, paga. Voglio dire, no, ma ribadisco, stabilito che poi il pensiero di quest'uomo, la cosa grave è stata la non smentita o la non presa di posizione o il non fare dopo, però vedere che in un mondo che diventa paradossalmente per certi versi sempre più razzista, sì, e torniamo ai populismi e torniamo a tutto quando anche quanto sopra, ogni tanto che un brutto muso come quello arrivi in faccia una secchiata d'acqua fredda, non fa male. Senti, a proposito, il collegamento è questo. Vedo su Vanity Fair che avete fatto un lungo servizio, caro Luca, alla copertina è Kate Blanchett. Grella, anzi bisogna pronunciarla alla francese, no? Kate Blanchett sarebbe più la prima. Bravo, Anvedia, oh, come ho studiato questa settimana. Un lungo servizio a Mike Tyson, uno che ne ha passate di lunghe, non so, ne ha passate di tante e di dure e difficili. Il razzismo non so se l'ha mai vissuto lui, Luca? Ma diciamo che sì, sicuramente l'ha vissuta, ma forse era l'ultimo dei suoi problemi, nel senso che sapeva anche difendersi. No, sì, questo sì. Una lunga intervista a Mike Tyson, un personaggio che, devo dire, mi ha sempre... posso dire affascinato, anche se ovviamente è una persona che ovviamente ne ha combinate di tante, ha pagato anche moltissimo. Giustamente, insomma, ha pagato con il carcere in maniera dura, però è un personaggio che ha fatto anche sognare per un certo certo punto milioni di persone nel mondo, con la sua storia, con la sua, e che voi raccontate, perché parla di Berlusconi, anche, ma anche voi di Berlusconi, Mike Tyson, nell'intervista. Ti devo dire, lo ha conosciuto, lo ricorda con molta simpatia. Ah, vabbè, insomma, vabbè, come vedi Berlusconi spunta sempre, cara Paola. Stai attenta oggi ad aprire una telecamera che esce, track, Berlusconi. oggi con Skype pomeriggio, sì, ma continueremo ad occuparci anche di questo, perché così, perché dobbiamo farlo, perché le elezioni... Hai capito, c'hai Berlusconi, devi dirlo se c'hai Berlusconi, dimmelo. Non te lo direi? No, appunto, hai Berlusconi o no? Di che ti occupi? No. Ma lo inviti? No. Sì, sicuramente lo invitiamo, vedremo che cosa salterà fuori. Io ho una proposta. Sì. Direttore, me la fate fare? Veloce. Non so esattamente quando caschi la festa della mamma. Vorrei che alle mamme venisse regalato il libro della nostra Wondy. Oh, ma vabbè, ma torno sul tema. La Wonderful Wondy, la nostra super blogger, che ha scritto un libro bellissimo nel quale il racconto di essere mamma emerge con prepotenza, l'ho detto, mi taccio. Va bene, non ti ho messo neanche i violini. Grazie a Luca Dini con Vanity Fair in edicola e Paola Saluzzi alle 15. Alla prossima su Sky, ovviamente, Paola Saluzzi. Alla prossima. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci, le 7:18 in punto. Cari ascoltatori, amici debosciati d'Italia, vi ricordo che ho domani che giorno è? Il 1° maggio? E quindi si lavora per santificare la festa del lavoro. Noi saremo qui in onda regolarmente il 1° maggio. Regolarmente, no, a dire la verità inizieremo alle 7:20, un po' più tardi. Faremo i debosciatini anche noi. E così anche il 2 maggio, alle 7:20. Però siamo in onda regolarmente e vi ricordo il tema che affronteremo invece oggi. Parleremo di queste modifiche sulla legge Fini-Giovanardi per la questione delle droghe. Tornano di fatto le divisioni in tabelle tra droghe leggere e droghe pesanti. C'è chi dice che è un bene, finalmente. C'è chi dice, attenzione, si rischia di tornare alla cultura dello spaccio, dello spinello libero, delle poche sanzioni. Ne parleremo alle 8:15. Con noi avremo Paola Binetti come onorevole e Marco Perduca, ex senatore del PD, dei radicali, eletto nel PD ma radicale. Ne parleremo, cercheremo di contattare anche di vedere qualcosa, di parlare di questa vicenda degli applausi per gli agenti condannati per l'uccisione di Federico Aldrovandi. Vedremo, insomma, di contattare il responsabile del SAP, che è stato già nostro ospite, se sarà con noi alle 8:45. E andiamo a leggere i giornali, che questa notizia è una notizia con la quale molti giornali aprono. Questo mercoledì 30 aprile, intanto il Sole 24 Ore non mette una buona notizia in prima pagina. Casa, cresce il conto della Tasi, lo vedremo poi nelle nostre città. Arrivata la nuova tassa, si scopre che costerà più della vecchia. Ai, e così è. Allora, il Corriere della Sera apre proprio su questa vicenda. Applausi agli agenti condannati. Cosa è successo ieri al convegno del sindacato di polizia SAP? Sono stati accolti tra gli applausi 3 dei 4 agenti che sono stati condannati per l'uccisione di Federico Aldrovandi, ragazzo ucciso a Ferrara. Questo omaggio, questo applauso è diventato un caso, tanto che Renzi, il presidente del Consiglio, ha subito telefonato alla madre di Federico per condannare il gesto. Questa notizia anche in prima pagina di Repubblica: Aldrovandi, applausi shock degli agenti, la madre dice vergogna. La notizia però di Repubblica di prima pagina e i più in risalto è Berlusconi scatta l'altolà del tribunale. Ecco, questa vicenda di Berlusconi che rischia che gli vengano diciamo revocati i servizi sociali in favore invece del carcere per le sue dichiarazioni, anche l'apertura per Libero, i giudici minacciano Berlusconi. Il Secolo XIX, troppi insulti, Berlusconi adesso rischia. Il Giornale, ora arrestano le idee. Questi sono i titoli dedicati a Berlusconi. Mentre il Fatto Quotidiano è altro che Renzi anticasta, gli sconti ai partiti restano. È una notizia che c'è sul Fatto, hanno scoperto che il taglio ai benefici postali per i partiti, che era stato annunciato da Renzi, è arrivato nel decreto, ma partirà dal 1 giugno, quindi da dopo le elezioni europee. La Stampa invece si dedica su TAR e dirigenti licenziabili. Renzi attacca la burocrazia, arriva oggi in Consiglio dei Ministri la riforma della pubblica amministrazione. Per l'Unità Berlusconi insulta i suoi giudici, mentre il manifesto mette questa foto della morte di Riccardo Magherini a Firenze, altro caso che fa discutere, morto durante un arresto da parte di agenti di polizia, e il titolo è Applausi. Ovviamente si rievocano gli applausi di ieri per gli agenti che invece hanno provocato la morte di Federico Aldrovandi. Io però voglio partire da quella che è una incredibile intervista di un'intera pagina sul Secolo XIX al comandante, il comandante con la C maiuscola, il comandante per eccellenza, Francesco Schettino, colui che è diventato famoso in tutto il mondo, l'ex comandante della Costa Concordia, Paolo Crecchi, un grandissimo giornalista e intervistatore del Secolo XIX, lo scova, riesce finalmente a far raccontare a Schettino le mie verità. Tutta colpa dei miei ufficiali, già il titolo dice tutto. Gli hanno offerto un posto da istruttore per insegnare ai capitani di lungo corso come fare le manovre. Inizia così l'articolo, non è una barzelletta. Poi qualcuno ha fatto pressioni per bloccare l'assunzione, accusa lui perché non era bello che si sapesse quello che in molti stanno confermando in aula, cioè che Francesco Schettino resta un signor comandante e ha fatto il proprio dovere. Così Schettino parla di se stesso, un comandante che resta un signor comandante, ha fatto il proprio dovere. Eccola qui, la mia verità. La verità è quella del codice di navigazione. Stavamo a mezzo miglio dalla costa, a quella distanza il governo della nave è affidato alla guardia. La guardia sono gli ufficiali della plancia, ma certo che non vengono mai sollevati né dal ruolo né dalle rispettive mansioni. Invece nessuno ha segnalato il pericolo. Il primo ufficiale, Ambrosio, che faceva le misurazioni nautiche, il terzo, Coronica, che guardava il radar, l'ufficiale subentrante, Ursino, che non si capisce cosa facesse, il timoniere, Rusli Bin, nessuno ha fiatato. Questa è la frase di Schettino, nessuno ha fiatato. Mi sono accorto io di quello che stava succedendo, guardo il mare e vedo la schiuma. Quando ci sono i bassi fondali, il moto ondoso dà origine a una schiumetta. Ma voi stavate facendo l'inchino? No, solo un passaggio ravvicinato. Invece ci siamo trovati sugli scogli e non uno a dire «Comandà! Siamo alla distanza minima! Comandà! Attenzione!» Queste sono parole di Schettino nell'intervista. Ma lei ha navigato 33 anni, come può essere successa una cosa simile? È brutto dirlo, ma è stato un incidente che si sarebbe potuto verificare in qualsiasi altra circostanza, considerate le carenze di coordinamento del team di plancia. Insomma, scarica tutto sui comandanti. E poi lunghissima è l'intervista. Beh, per esempio c'era la Moldava. Ma era lì in un angolo, ma non è vietatissimo, chiede Paolo Crecchi. No, basta pagare 70 euro e si possono fare perfino le visite guidate con tanto di foto e brindisi con il comandante. Sì, ma poi c'è stato il naufragio, lei ha abbandonato la nave. No, risponde Schettino. Mi hanno scagionato tutti, utilizzando termini diversi, caduto, scivolato, saltato su una lancia. La verità è che su un piano inclinato, se un piano si inclina, diventa preponderante la forza di gravità. Ci dà lezioni banali di fisica, cioè se la mela cade dall'albero, cade. Questo è. Quindi quando un piano si inclina c'è la forza di gravità. Se non lo riconosci sei in malafede, così dice Schettino. E poi la telefonata con De Falco. Io sono sbarcato sugli scogli, non in porto, ma a 20 metri dal naufragio. Avevo già parlato col comando generale a Roma. Mi dicono di star lì col telefono pronto. E che succede? Mi chiama De Falco. Sto parlando con un gommoncino della nave appoggio. Si sente in sottofondo. Avevo segnalato da poco che le motovedette non andavano sotto bordo. Per paura, perché la Concordia si stava inclinando sempre più. De Falco invece aggressivo, perché ha saputo del comportamento delle motovedette. Attacca per difendersi. Poi certo, io avevo la voce di uno che stava vivendo la tragedia della sua vita, ero avvilito, quello non capiva, lo ha testimoniato anche Ferrarini in aula. Vabbè, insomma, io non sono Lord Jim, ho fatto la scelta giusta, però mi chiedo qual è il parametro per definire una tragedia, il valore della nave o delle vite umane? Ecco, conclude così con questa domanda Schettino. Comandà, nessuna affiatata, nessuno mi ha detto nulla e siamo andati sugli scogli. Oh, come detto, c'è grande polemica per gli applausi che sono stati tributati ai quattro agenti. Per la verità erano presenti solo in tre, i tre uomini, l'agente donna non c'era, che si sono presentati ieri al convegno del SAP, Sindacato Autonomi Polizia. Gli agenti accusati in via definitiva e condannati in via definitiva più che altro per la morte di Federico Aldrovandi. Il premier Renzi ha subito telefonato alla madre Patrizia Moretti, che oggi fa due interviste a Repubblica e al Messaggero. A Repubblica pagina 2 e 3 dice, scoppiando a piangere: sto molto male, da non immaginare, un senso di nausea fortissimo, mi si rivolta lo stomaco per quegli applausi, mi hanno fatto insieme paura e ribrezzo. Parla anche del presidente del SAP, Tonelli, quel bel personaggio che aveva detto su una TV locale che se non fosse stata per una povera donna di buon cuore mio figlio sarebbe ancora là su quella strada dove è morto a sbatter la testa contro i pali. Solo che mio figlio ha sbattuto la testa contro i manganelli, altro che pali. Mi preoccupa però più di lui quell'applauso, molto brutto sapere che chi dovrebbe tutelare la legalità applaude i delinquenti condannati per omicidio in ogni grado di giudizio. E poi la madre Aldrovandi chiede, Pansa era lì, cioè il capo della polizia? Il SAP non è un piccolo sindacato. La cosa strana è che quella volta il SAP mi aveva manifestato solidarietà quando un altro piccolo sindacato di polizia mi aveva attaccato, ma poi vanno ad applaudire gli assassini, proprio un bel gesto. La madre di Aldrovandi anche al Messaggero conferma a Nino Cirillo queste stesse sensazioni molto molto negative. Mi ha chiamato Renzi, ovviamente è stata una telefonata veloce solo per dichiararsi vicino e solidale, per mandarmi un abbraccio, ma sono cose che fanno veramente male, quelle mani in platea che hanno applaudito, le stesse che hanno ucciso. Questo è il titolo dell'intervista al Messaggero. Davvero una vicenda abbastanza incresciosa, così l'ha definita anche, o con un aggettivo comunque negativo, il ministro dell'interno Angelino Alfano. Ripeto, noi cercheremo di avere alle 8.45 il capo del SAP, che è stato già nostro ospite la scorsa settimana, a capire come può giustificare questi applausi. Anche sul Corriere della Sera, applausi ai poliziotti, l'ira del governo. Alfano definisce gravissimo questo episodio e il premier Renzi telefona alla madre di Aldrovandi dicendo sono applausi indegni. Noi ripartiamo dopo la pubblicità, è ancora campagna elettorale, le preoccupazioni per Berlusconi che rischia ora che gli vengano tolti i servizi sociali per le dichiarazioni sempre molto dure e poi altro. Alessandro Milan, il John Holmes dell'informazione. Sì, uguale, caro ascoltatore. Allora, Silvio Berlusconi anche oggi prende le prime pagine dei giornali Perché? Perché ieri alcune dichiarazioni, a Mattino 5, il paragone con, non tanto Grillo e Hitler, ma soprattutto il profondo rosso affibbiato a Giorgio Napolitano, capo dello Stato, che è pur sempre il presidente del CSM, quindi l'organo di autogoverno dei giudici. Sapete che, essendo stato condannato ai servizi sociali, una delle regole di Berlusconi è non attaccare i magistrati. Ecco allora che è arrivato l'altolà del tribunale. E insomma, come dire, Berlusconi rischia grosso, rischia che le vengano sottratti e revocati, o meglio, i servizi sociali a favore del carcere, o meglio, degli arresti domiciliari. I suoi attacchi al capo dello Stato, le sue accuse di golpe anche per sentenza Mediaset, rischiano davvero che l'affidamento ai servizi sociali venga revocato. Le parole pronunciate dall'ex cavaliere, soprattutto nel corso dell'intervista a Piazza Pulita, sono al vaglio del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Ecco, Repubblica scrive: quando ieri l'ANSA, le agenzie, alle 15.56 hanno battuto questa notizia, certamente c'è stata molta preoccupazione. Anche il vicepresidente del CSM, Michele Vietti, ha detto: chi pensa di far campagna elettorale utilizzando il Presidente della Repubblica scherza col fuoco. Nonostante ciò, ieri Berlusconi ha, appunto, al Mattino, a Mattino 5, è stato molto duro. Poi però è successo qualcosa, come raccontano i giornali. Ugo Magri è, come al solito, uno dei migliori, dei più informati su quello che avviene attorno a Silvio Berlusconi, e racconta che mentre di buon mattino era ancora tonico, pimpante negli attacchi, poi si sarebbe seriamente preoccupato. Il titolo dell'articolo è "L'altalena del leader forzista, prima va giù duro, poi si allarma". Racconta Ugo Magri che addirittura i berlusconiani più ferventi, così come gli anti-berlusconiani più accaniti, coltivano lo stesso sogno: Silvio in galera. Ebbene sì, scrive Ugo Magri, anche i berlusconiani più ferventi, perché a chi glielo chiede privatamente in pubblico, figurarsi se lo direbbero mai, rispondono con cinismo: fino al giorno delle elezioni, se andasse agli arresti, non si parlerebbe d'altro, l'Italia sarebbe chiamata all'ennesimo referendum pro o contro Berlusconi e la nostra rimonta sarebbe assicurata, sarebbe il regalo più grande che potrebbero farti. Così molti dei berlusconiani ferventi dicono a Silvio Berlusconi, un pochino preoccupato, dovessero arrivare gli arresti: sarebbe il regalo migliore che potrebbero farci per rimontare in campagna elettorale. Tutto è così, è misurato in voti, cari italiani. Però in realtà Berlusconi, che al Mattino appunto attaccava, racconta la stampa, poi si è sentito molto molto preoccupato, scrive sempre Ugo Magri. Persona super attendibile che con lui ha colloquiato giura di averlo trovato allarmatissimo e profondamente scosso della possibilità che gli vengano revocati i servizi sociali. Secondo il Messaggero, avrebbe anche litigato con i suoi avvocati. Il cavaliere litiga con i suoi legali, ho diritto di critica e di parola, nell'articolo di Sonia Oranges che trovate a pagina 7. Silvio Berlusconi incassa con sofferenza, se non vera e propria rabbia, l'altolà lanciato dai tribunali di sorveglianza e dice ai suoi avvocati: sta cosa assurda, vogliono zittirmi, impedirmi di esprimere le mie legittime opinioni. Sta di fatto che però ieri è intervenuto telefonicamente in un convegno e ha smussato i toni, se non altro, nei confronti di Napolitano. Come finirà non si sa. Certo, Berlusconi ha già fatto un blitz a Cesano Boscone, tenuto un po' in segreto, non si è saputo finché non è uscito. È andato ieri un'ora, è stato un'ora, e tra le richieste che ha fatto, fanno sapere i giornali, il bagno privato e un ufficio all'interno della struttura. Parla invece Marina Berlusconi, la figlia, in un'intervista a pagina 3 del Corriere della Sera, un'intervista a tutto campo. Il tema è sempre quello: l'ascesa in politica, la discesa in politica. Dice Marina Berlusconi: io per la politica ho grande rispetto, ma il mio posto è nelle aziende. Mentre ho scelto un'altra strada, sono soddisfatta della mia vita, mi ha riservato molte fortune nel lavoro e a livello personale, quindi oggi è così. Però apre uno spiraglio, perché dice: un domani, se capitasse la politica, chissà. Per il momento però Marina Berlusconi dice di no. e poi parla del governo, critica Renzi, invece del nuovo che avanza mi sembra il premier il nuovo che arretra, sul decreto lavoro un dietrofronte dettato dalla sinistra del PD e sugli 80 euro misure come queste sono spese elettorali, non vedo le coperture, vedremo, ma comunque quei soldi, oltre 20 miliardi in due anni, si potevano usare in modo molto più efficace. In questa lunga intervista a Daniele Manca parla anche del padre Silvio Berlusconi e lo definisce in 20 anni uno perseguitato da una persecuzione giudiziaria senza precedenti. Questo Marina Berlusconi. A proposito degli 80 euro c'è invece questa polemica che è montata soprattutto sui social network per le dichiarazioni di Pina Picerno, il Partito Democratico, che ha detto che con gli 80 euro si fa la spesa due settimane. Apriti cielo, tutti a dire, in una polemica molto italiana, mamma mia. Ma dove fa la spesa? Come si fa con 80 euro? E allora Pina Picerno fa due interviste a Repubblica e al Corriere. Al Corriere della Sera, pagina 6, intervistata da Monica Guerzoni, dice: io vivo da sola. E quindi non sono stata equivocata, io non ho mai detto che con 80 euro si fa la spesa per una famiglia intera, io sto da sola e faccio la spesa per due settimane con 80 euro. Ma ognuno ci fa quello che vuole, uno, un padre può portarci i figli al cinema qualche volta in più, un single può comprare un paio di scarpe, un sacco di persone che mi stanno mandando i loro scontrini mi dicono che ho ragione e poi via, io d'altronde sono casertana, cucino meravigliosamente, alla grandissima come sanno i miei amici, stasera che fa? Pasta al ragù col macinato di vitello sceltissimo e via così, insomma. Intervista sul Corriere della Sera sugli 80 euro, che si fa con questi 80 euro. Si vive? Si fa la spesa due settimane? Non si sa, non lo so. Lo voglio chiedere a Mauro Meazza. Tu con 80 euro quante spese ci fai, caro Mauro Meazza? Tu che buongiorno Alessandro. Tu frequenti solo il quadrilatero, si sa, della moda, quindi via della Spiga, queste zone qui. Quindi... Certo, io con 80 euro pago l'anticipo al mio avvocato che sta preparando appunto un corposo dossier su di te. Anzi, però a questo proposito. Ma questo dossier, una volta che mi arriverà addosso, mi procurerà almeno due fratture. No. Sì, sì, anche fisicamente ti sì, colpiremo. Sì. Volevo dirti che però io non so, non credo che questa sia tra le domande che sì, si aspettano i nostri esperti, ma in ogni caso noi abbiamo aperto una casella di posta elettronica dove si possono mandare delle domande agli esperti, si potranno anche consultare poi le risposte dei vari esperti. L'indirizzo è www.ilsole24ore.com/sbarra, chiamala come vuoi, bonus IRPEF, scritto tutto attaccato. Allora, si possono mandare delle domande. Io non credo che gli esperti siano in grado di dirci quanta spesa che si cosa può fare si fa con gli 80 euro, che resterà un po' nella decisione dei singoli. Però invece altre cose del tipo: ma se ho più lavori, chi mi può dare il bonus? Se per dire ho più rapporti di lavoro nell'anno? Domande via. Un po' più pratiche, insomma. Ecco, forse domande di questo tipo, penso. Cioè, non chiedete sicuramente... a quanto vengono i fagiolini, ecco, per Non dovremmo avere esperti di fagiolini, poi per carità, ogni esperto può essere più o meno preparato anche su questa vicenda. Ho visto una tua bella foto a pagina 42, che annuncia appunto i temi della trasmissione che seguirà questa, sì, di cui sì, anche io faccio parte. A proposito di avvocati, scusami se torno su un tema, come dire, a me caro, oggi con il Sole 24 Ore c'è uno speciale di 16 pagine proprio dedicato alle nuove parcelle degli avvocati. Io naturalmente lo sto leggendo con molta attenzione, avidamente, per sapere quanta parte degli 80 euro devo dedicare al pagamento dell'avvocato che per farmi causa, va bene. Mi renderà. Io farò una class action tutti i miei ascoltatori per contrastare questa cosa. Comunque vedremo. Gli ascoltatori di Radio 24 contro Mauro Meazza mi sembra davvero troppa gloria, non me lo merito. Senti, leggi Gianni Dragoni per le vicende Etihad all'Italia, naturalmente. Quello sempre, quando si parla di all'Italia, tu leggi Gianni Dragoni. Lì sembra che, come dire, non si facciano grandi passi avanti, se non c'è forse uno spiraglio sull'occupazione da 3.000 esuberi di cui si parlava ora si è scesi a 2000. Però io, caro Mauro, sono rimasto preoccupato anche dell'apertura del Sole di questa storia della Tasi, che insomma, aumenti questo in vista. Ecco, non, io non volevo, come dire, fare una battuta troppo facile, non vorrei che gli 80 euro avessero già trovato una prenotazione. Però insomma sì, la battuta è davvero un po' facile, ma il nostro monitoraggio che vedi a pagina 3 sui alcuni grandi centri, voglio dire da Ancona, La Spezia, Milano, Torino e così via, e fa vedere che insomma questa TASI, questa tassa sui servizi invisibili, sì, spesso è a rischio di aumenti per i proprietari. No, ma è chiaro, io l'ho chiesto di recente al sottosegretario Del Rio e lui diceva: ma no, non possono aumentare le tasse locali, cioè non possono, secondo le nostre cose, non devono aumentare. Però è vero che non dipendono dal governo centrale, ma se dal governo centrale arrivano 80 euro e a livello locale per aumento delle tasse ce le tolgono, che ne so, 40, vabbè, sempre quello è questione di soldi che entrano ed escono. Non vorrei farla più facile di quello che è, in ogni caso, con cui bisognerà poi vedere quali saranno le decisioni dei comuni, lo spiega molto bene Gianni Trovati, c'è anche una tabella riassuntiva che fa capire come si articola questo prelievo, che poi oggettivamente, insomma, non vuole essere una critica, ma non è semplicissimo da afferrare. No, ma è chiaro. Non è proprio la prima cosa che si impara a comprendere, diciamo, già dalla prima visione. Bene. Noi ci sentiamo anche domani. Ah, certo, ci sentiamo. Lavorando, essendo la festa del lavoro, si lavora. Ma questo invece mi rende felice, naturalmente non per il fatto di sentirti, ma per accumulare nuovo materiale nei tuoi confronti. E allora a questo punto, traffico. Alessandro Milan, il giornale parlante dell'informazione. Eccoci qua alle 7:47 minuti. Allora, non si sa e si vedrà gli 80 euro se andranno a finire un po' in Tasi, come scrive oggi il Sole 24 Ore. Leggete città per città come potrebbero essere purtroppo gli aumenti. Di certo non si sa come andrà a finire anche la riforma elettorale. Allora, siamo alla 52esima settimana decisiva per la riforma elettorale, ma raccontano oggi i giornali che, soprattutto Repubblica, non retroscena, che Matteo Renzi nei colloqui privati dice l'Italicum è a rischio e potrebbe saltare, dipende come andranno le elezioni, staremo a vedere. Di certo invece il Fatto Quotidiano lo mette in prima pagina, mette una notizia: ricordate durante la conferenza stampa sugli 80 euro, appunto, Renzi disse anche abbiamo tolto i privilegi e le agevolazioni postali per la propaganda elettorale per i partiti. I partiti vadano e i politici scendano più nelle strade, incontrino la gente. Ebbene, il titolo del Fatto Quotidiano di prima pagina è: altro che Renzi anticasta, gli sconti ai partiti restano. In realtà l'inghippo è in una data. Wanda Marra ne scrive a pagina 2: Matteo, c'è posta per te, è gratis. Abolire le tariffe postali agevolate per i candidati, lo facciamo per loro. Così aveva detto Matteo Renzi in conferenza stampa il 18 aprile, ma da quando parte questo, come si legge nel decreto in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile? Dal 1 giugno, a decorrere dal 1 giugno, le tariffe postali agevolate sono soppresse. Occhio alla data, il 1 giugno, ovvero dopo le elezioni europee. Quindi per le elezioni europee è tutto confermato, tanto che a pagina 3 il Fatto rincara la dose con il titolo: il pifferaio magico Renzi, annunci, minacce e rinvii. Di certo invece è un annuncio importante, oggi c'è il Consiglio dei Ministri, è la riforma della pubblica amministrazione. Tutti i giornali raccontano che non è che oggi ci saranno delle riforme previste e firmate, anzi Paolo Baroni sulla Stampa racconta che nel Consiglio dei Ministri di oggi non si prevede nulla di specifico, nessun decreto, nessuna nuova legge, ma l'ordine del giorno prevede che si parli dei provvedimenti che si propongono sulla pubblica amministrazione, quindi un embrione di riforma. E il tema e la novità che appare più sui giornali è la possibilità di licenziare i dirigenti, la licenziabilità dei dirigenti pubblici. Questo è il titolo, per esempio, della Stampa: riforma della pubblica amministrazione, lo Stato potrà licenziare i dirigenti. Così anche sul Corriere della Sera: statali tagli ai dirigenti, nuova busta paga, mentre come racconta Andrea Bassi sul Messaggero a pagina 3, in quanto agli esuberi nessuno verrà licenziato. Così Matteo Renzi prova a rassicurare gli statali, che in fin dei conti costituiscono ancora una consistente fetta dell'elettorato del PD. 85.000 esuberi indicati dal commissario alla Spending Review Cottarelli, è vero, ma sono solo teorici, così ha spiegato il Premier, che ieri era Porta a Porta. Dalla riforma della pubblica amministrazione è legata anche una consistente fetta, 3 miliardi di euro di risparmi necessari a mantenere in piedi l'impalcatura dei conti pubblici disegnata nel documento di economia e finanza. Dunque, saranno teorici o no questi 85.000 esuberi, e soprattutto la licenziabilità o meno dei dirigenti? Questo è il tema sul quale si potrà discutere. Mentre fa ancora discutere dal punto di vista della cronaca due aspetti veloci. Il primo, la polemica sui migranti, perché c'è una polemica tra il Viminale e il Ministero dell'Interno, con ieri il funzionario che è addetto alla gestione dei numeri a dire possono arrivare 800.000 persone. 800.000 persone sono cifre altissime, tanto che ieri Matteo Renzi proprio in TV ha detto: i toni utilizzati sull'immigrazione mi colpiscono perché improntati alla superficialità. Allora, non c'è posto per i migranti, ma Renzi richiama il Viminale. Questo è il titolo del Corriere della Sera, con l'articolo di Fiorenza Sarzanini a pagina 16. Leggetelo, perché sul tema migrazione e sul quanti sono le persone, soprattutto in una Libia devastata ancora dagli scossoni interni, pronte a partire, e questo è il tema su cui molto si discute. Mentre si discute molto anche sul tema delle droghe, ne parleremo alle 8:15, perché di fatto torna a giorni, con il voto oggi alla Camera, poi dovrà essere convertito al Senato, la distinzione tra droghe leggere e pesanti. C'è l'allarmismo di chi dice: attenzione, si torna alla cultura dello spinello libero. C'è invece il sollievo di chi dice: meno male, si ritorna a un principio che era un principio giusto. Tutti i giornali dedicano pagina a questo: droghe si cambia, per quelle leggere la pena è ridotta. Questo è il titolo, per esempio, di pagina 14 del Messaggero, ma è anche l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera di Giovanni Belardelli, che scrive: si tratta, quello delle modifiche tra droghe leggere e pesanti, di modifiche richieste da tempo da molti operatori in campo di tossicodipendenze, a condizione però che non le si voglia interpretare alla luce di quella sotterranea ma resistente ideologia dello spinello libero, probabilmente condivisa da una parte dell'opinione pubblica, a condizione cioè di restare, o forse diventare, adeguatamente consapevole dei rischi che il prolungato consumo di cannabis può comunque avere, soprattutto per gli adolescenti, in quanto incide negativamente sui meccanismi dello sviluppo neurologico, determinando deficit di memoria e apprendimento. Così nell'editoriale di prima pagina del Corriere, ne parleremo alle 8:15. E solo in conclusione, ormai insomma anche oggi mi tocca dare la carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali, al Giornale, che ormai veleggia in testa alla classifica. Elena Gagliardoni, una pagina intera per dire che a Milano la solitudine dei numeri uno. I manager sono depressi. Mi dispiace per loro, non so peraltro se sia vero. Non so se sia vero. Qualcuno lo sarà, qualcuno no, come in tutte le categorie. Ma una pagina dedicata a questa sul Giornale. Dai, andiamo al Giornale Radio. 24 mattino. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:18. Allora, parliamo di legge sulle droghe, cari ascoltatori, oggi. Detto che poi alle 8:45 avremo anche in chiusura il presidente del SAP, torna con noi, quel sindacato di polizia sommerso dalle polemiche, perché ieri ci sono stati gli applausi gli applausi agli agenti che sono stati condannati in via definitiva per l'uccisione di Federico Aldrovandi. Ma parliamo e partiamo dalle droghe, perché è un tema che abbiamo affrontato varie volte, ma ci sono novità perché ieri la Camera ha approvato il decreto Lorenzin, che di fatto deve recepire delle modifiche dopo che la Corte Costituzionale ha bocciato la legge in vigore Fini-Giovanardi, almeno in parte. Allora, se non ci saranno modifiche al Senato, cosa arrivano come novità? Beh, una riduzione delle pene per il piccolo spacciatore, sanzioni ridotte per l'uso personale delle sostanze stupefacenti, soprattutto si reintroduce di fatto quella distinzione, quelle tabelle tra droghe pesanti e droghe leggere, una distinzione che la legge Fini-Giovanardi invece aveva eliminato. Scrive oggi il Corriere della Sera nell'editoriale di prima pagina di Giovanni Belardelli che l'aver ridotto la pena per il piccolo spaccio, ma anche aver ripristinato la distinzione tra droghe leggere e pesanti, sono modifiche da tempo richieste da molti operatori nel campo delle tossicodipendenze. A condizione però che non le si voglia interpretare alla luce di quella sotterranea ma resistente ideologia dello spinello libero. Ecco, perché questo è il timore di chi dice: attenzione, ritorna la cultura dello spinello libero, mentre invece i sostenitori di questa legge dicono è anche poco, bisognerebbe arrivare a una piena legalizzazione. Forse la pensa così Marco Perduca, che saluto, ex senatore dei Radicali. Buongiorno Perduca. Buongiorno a lei e saluto gli ascoltatori. Saluto anche Paola Binetti, deputato di Per l'Italia. A tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, Perduca, lei è della cultura dello spinello libero oppure no? La cultura dello spinello libero è quella che c'è adesso, se è vero come è vero che oltre 3 milioni e mezzo di italiani uno spinello se lo fanno con una certa regolarità e quindi è liberamente acquistabile e liberamente fumabile e fortunatamente però non va a intasare le nostre carceri. I radicali, con l'antiproibizionismo che ormai da 40 anni li caratterizza, vogliono la legalizzazione di produzione, consumo e commercio di tutte le sostanze e loro regolamentazione nel mercato. Per fare che cosa? Per non consegnare il problema all'ordine pubblico e a chi lo gestisce, e poco fa avete anche ricordato come alle volte viene gestito l'ordine pubblico, ma per farlo diventare un problema sociosanitario che possa essere gestito in libertà di scelta informata. Questo è il nostro approccio, sì, e certo. Purtroppo le modifiche della legge non sono sufficienti. Lei dice non sono sufficienti. Assolutamente. Cioè, voi vorreste anche dei passi ben ulteriori. Guardi, le giro subito in diretto un SMS che ci arriva da un ascoltatore. Dice: insomma, più droga per tutti, possiamo ridurlo così il vostro slogan. Ovviamente in maniera consapevole, è una provocazione quella dell'ascoltatore, immagino. Ma più droga di così mi pare difficile, perché ce n'è veramente già tanta in giro. Tra l'altro l'Italia è il posto attraverso il quale la droga entra in Europa dal sud del mondo. Noi possiamo utilizzare, per quanto riguarda le cosiddette droghe leggere, per esempio la legge che due stati degli Stati Uniti, voglio dire gli Stati Uniti, non i Paesi Bassi, hanno adottato l'anno scorso. Il Colorado in modo particolare sta gestendo in maniera mirabile la legalizzazione della marijuana per scopi, virgolette, ricreativi, con anche dei ritorni economici, oltre che tutti i problemi sanitari che ammesso non concesso ci possono essere relativamente alla marijuana, non ci sono più. Occorre essere trasparenti, decisi e certi. Questa nuova legge rimane una forte dose di incertezza e di discrezionalità sia per la polizia che per il magistrato. Aggiungo, oltre agli stati c'è anche, lei farebbe addirittura come in Uruguay dove... Sì, l'Uruguay devo dire adesso sta già modificando le quantità, per esempio, che sì, però lì hanno fatto addirittura una legge per renderla legale. Beh, guardi che in Italia nel 1993 un referendum dei radicali che depenalizzava il possesso personale di tutte le sostanze fu votato favorevolmente da 22 milioni di italiani, non uno, 22. No, ma certo. Allora, Paola Binetti, io so che lei ha fatto qualche dichiarazione dicendo che questa legge ha anche aspetti positivi, nel senso che dalla punizione nei confronti magari del piccolo spacciatore o del piccolo consumatore, dalla punizione, quindi l'intervento repressivo, si cerca magari più ad avere un approccio di formazione più educativo, però partiamo invece dalla posizione molto radicale in tutti i sensi di Perduca. Lei la respinge? Sì, radicalmente al mittente. Diciamo che la teoria secondo la quale rendere totalmente libero l'uso delle droghe potrebbe convertirsi addirittura in una sorta di aumento del prodotto interno lordo attraverso i processi di fiscalizzazione, perché a questo punto verrebbe soggetta a tassazione, e quindi addirittura lo Stato potesse far cassa attraverso il commercio libero della droga, è un concetto che dal punto di vista che io considero fondamentale nella vita di un paese e anche della responsabilità che noi abbiamo nei confronti delle nuove generazioni, crea effetti assolutamente devastanti. Cioè, da che punto di vista etico più che... Dal punto di vista etico, ma creda che quando io parlo di un punto di vista etico parlo anche di quella semplicità che è l'etica della salute umana, che è la necessità che abbiamo noi di considerare un diritto del cittadino la tutela della sua salute, come dice la nostra Costituzione. Mi sembrerebbe sorprendente che uno Stato che vuole davvero garantire qualità di vita e qualità di salute ai suoi cittadini poi metta liberamente in circolazione alcune tra le sostanze che maggiormente danneggiano questa salute. Credo che questa liberalizzazione spinta, che peraltro è vero, che i radicali perseguono da anni e ai quali però con altrettanta energia, con altrettanta convinzione, con fatti concreti, perché mi sembra che se le persone che sostengono una tale liberalizzazione dell'uso delle droghe passassero qualche tempo all'interno di una di queste comunità, scegliendo quella che vogliono, lo stile che vogliono, sì, il modello terapeutico che preferiscono, capirebbero perché proprio da chi si prende cura fino in fondo di queste persone arrivano i segnali di allarme più forti, più consapevoli e più motivati. Ma non so se sull'impegno personale dei radicali credo che non ci sia molto da dire. Credo, non so, lei per Luca è andato mai in una comunità terapeutica per cambiare eventualmente idea da questo punto di vista? Intanto saluto l'onorevole Binetti. No, nelle comunità terapeutiche no, ma nelle carceri italiane sì, e come anche l'onorevole Binetti sa, perché so che le frequenta, oltre il 30% di chi è dentro per motivi di droga. Innanzitutto ripeto che noi non vogliamo liberalizzare, perché è già libera, ma legalizzare e regolamentare. Sì. Però c'è, diciamo, questa idea di fare cassa anche su questo. No, ma fare cassa, ma le droghe più violentemente pericolose sono il tabacco e l'alcol, e sono ampiamente tassate e rappresentano per l'appunto per l'Italia una bella fetta di PIL. Cioè non bisogna mai farsi distrarre dall'atteggiamento ideologico e guardare ai fatti. I fatti ci dicono che le droghe che ammazzano sono legalizzate, regolamentate e vengono tassate. Noi riteniamo che un fenomeno che dopo 50 anni di proibizionismo non fa altro che aumentare deve essere preso in considerazione in maniera radicalmente opposta, anche perché nel resto del mondo quando cambiano le leggi cambia l'approccio, le cose vanno certo, ma l'approccio certamente ideologicamente immagino sia anche diverso. Però per Duca le chiedo questo, che è poi quello che le ha chiesto Paola Binetti, sì. Se lei entrasse in una comunità e vedesse gli effetti della droga, pensa che potrebbero quegli effetti farle cambiare idea sulla possibilità di rendere legalizzare e quindi rendere più accessibile la droga, più accessibile? È vero che anche adesso è accessibile, però uno per farlo deve andare insomma un po' a infrattarsi negli angoli delle strade, cioè rischiare un pochettino, rischiare un arresto, rischiare una sanzione, mentre renderla più accessibile è chiaro che la renderebbe anche più facilmente fruibile, no? Su questo siamo d'accordo. Magari la renderebbe di qualità migliore, per cui non si avrebbero questo tipo di problemi. Ho capito, ma l'aspetto etico, cioè mi dica se lo respinge anche lei al mittente, cioè Paola Binetti dice fare cassa su una cosa del genere, sulla droga, eticamente mi disturba, non so come dire. Ma questo, che lo stato etico diciamo non ci è mai piaciuto e speriamo che mai lo dovremmo sperimentare su di noi. Frequentare chi è malato e ha un determinato tipo di problemi, tra l'altro ci sono tante malattie che possono essere curate con queste sostanze se somministrate in maniera diversa, e la dipendenza può essere curata con la somministrazione delle stesse sostanze, mentre invece ancora una volta in questa legge si ritiene che si debba affrontare il virgolette recupero, perché non si può condonare l'idea di poter vivere con le sostanze, cosa che invece la Svizzera da 20 anni fa e ha successo, cioè non ci sono morti di overdose e si va a diminuire il rapporto problematico con questo. Allora, su questo Paola Binetti risponda sulla questione, vabbè, che viene tirato sempre in ballo giustamente, alcol e sigarette che sono legali, fanno male e anche queste possono portare a gravi patologie. E poi insomma entriamo sulla questione della legge, cosa le piace e cosa no di questa nuova legge. A me cosa mi piace? Sì, certo, cosa non certo. Mi piace. E anche allora, però sulla questione anche sulla questione dell'alcol. Allora, ovviamente. Guardi, le voglio dire una cosa che spero che sia abbastanza chiara. Io ormai sono del tutto convinta che non basta la legge, quale che sia la legge, a determinarne poi l'efficacia nell'applicazione. Se intorno a questa legge non si crea una cultura che passa anche per quelle che sono le trasmissioni, come quella che stiamo facendo in questo momento, per quella che la stampa, lei all'inizio leggeva l'editoriale di oggi del Corriere della Sera, che peraltro mi sembra molto equilibrato e anche direi non può essere tacciato di, come dire, di visione etica repressiva. Quello che a me sembra importante è che cultura noi creiamo intorno a questa legge, perché se da questa legge dovesse uscire il messaggio che da ora in poi non c'è più problema nel consumo delle droghe, tantomeno nelle droghe leggere, noi avremmo fatto un danno non per la legge, ma per la comunicazione che è stata fatta della legge ai cittadini. Questa legge cosa dice sostanzialmente? Che noi abbiamo sbagliato pensando di poter aiutare le persone che avevano intrapreso un percorso di dipendenza, attuando in quel momento un contesto di repressione e, come potrebbe essere il carcere, di segregazione, laddove invece di liberarle dall'esperienza della dipendenza le abbiamo immerse in un contesto ad a più alta e più intensa, come dire, patologia. Peraltro creando un disagio complessivo totale nelle nostre carceri, come è noto, che crea davvero una situazione talmente di irrealtà da facilitare i processi. Quindi diciamo, questo è un aspetto positivo, le dice la legge, meno carcere. Ben venga però il sì alla prevenzione. Se io credo che posso liquidare il problema dicendo non c'è problema, tu la puoi consumare, tanto la conseguenza di questo non sarà mai che tu vai in carcere, io sto facendo un danno a questa persona. Se non supplisco a questo messaggio con un altro, che è quello che riguarda la propria capacità di investimento su di sé. L'uso delle droghe a scopo ricreativo, sì, come diceva prima Perluca, sappiamo tutti che non è lo spinello singolo quello che in qualche modo crea il danno. Intanto gli spinelli di oggi non sono gli spinelli di ieri, e la concentrazione che c'è di principio attivo è molto più forte, ed è una concentrazione che tende proprio a creare la dipendenza. Ma chiaro, ma il concetto che credo, e da qui ripartiremo tra poco anche dopo la pubblicità, che Perluca voglio sottolineare, è che nella legalizzazione ci debba essere anche un percorso, immagino, di informazione, anche informazione sui rischi. Se uno dice lo spinello di oggi non è più lo spinello di 30 anni fa, credo che la posizione dei radicali sia legalizziamo, diamo la possibilità consapevolmente di scegliere, perché consapevolmente ben informati di quello che si va a scegliere. Ma ripartiamo tra un attimo, ci raggiungerà anche Assunta Esposito, farò parlare con lei Perluca, soprattutto Assunta Esposito è presidente dell'Associazione Nazionale Genitori Lotta alla Droga, fa parte dei Quartieri Spagnoli a Napoli, ha perso un figlio per la droga ed è molto accanita contro, immagino, anche il tentativo di legalizzare. Ne parleremo tra poco, state con noi. 24 mattino. Eccoci qui con Marco Perduca dei Radicali, con Paola Binetti, onorevole per l'Italia, e con gli ascoltatori. E vorrei salutare anche Assunta Esposito. Signora Assunta, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è presidente dell'Associazione Nazionale Genitori Lotta alla Droga. Ieri ho letto sulla stampa, tra l'altro, lei ha una storia personale, familiare, difficile. Mi pare abbia perso il figlio per droga qualche anno fa, è giusto? Tre anni fa. Senta, signora Assunta, il radicale Marco Perduca che l'ascolta dice: noi siamo da sempre per la legalizzazione delle droghe, in maniera consapevole la scelta di poter avere la libertà di poter scegliere il proprio approccio personale alle droghe. Lei che ne pensa? Io penso che noi ci siamo sempre battuti con i radicali. Ci siamo sempre battuti, noi non vogliamo in nessun modo, in nessun perché la droga che viene legalizzata, non la vogliamo. Ognuna di noi, ogni mamma, ogni papà, ogni persona che ha questo ragazzo in casa che fa usa di droga è un macello, è come sarebbe la guerra in casa. Certo. Addirittura si lasciano marito, noi siamo contro. Lei però, contro Assunta, lei però signora Assunta, sa bene che la droga è disponibile in qualsiasi modo e facilmente ormai in tutta Italia, anche nelle grandi città, so che lei vive ai quartieri spagnoli a Napoli, cioè ce la si può procurare in maniera molto, molto banale, molto semplice, quindi già c'è una grande presenza di droga. Sì, lo so, questo lo so e lo so da 28 anni, perché sono 28 anni che ci stiamo battendo per questa droga. No, però è più facile aiutare i ragazzi che sia è proibito farlo. Mi sono spiegato, sì, i spacciatori stanno in ogni angolo, certo. però sta storia di dire i ragazzi che vendono il fumo, ok? Che vengono naturalmente presi. Non è che hanno 20 bustine in tasca, per dire io lo sto spacciando e prendo i soldi. No, ne prendono uno o due al momento in tasca. Il resto ce l'hanno nascosta. Sì. Quando hanno venduto quelle due, ne vanno a prendere altre due. Altre due sono spacciatori. Cavolo, lo vogliono capire sì o no? E allora sti ragazzini come facciamo ad aiutarli? Ragazzini di 13-14 anni che le mamme già sono disperate, disperate proprio, perché non guarda quando lo prendono incominciano con questi spinelli, non si finisce più, non si finisce mi faccia più. Capire allora, mi faccia capire signor Esposito, lei vorrebbe quindi delle leggi più dure invece che leggi più dure? Sì, io a mio figlio l'ho denunciato 4 volte e no per spaccio, perché lui rubava mio figlio e io dicevo no, non devi rubare, non devi spacciare, perché è la cosa più peggiore del mondo. Ragazzi che adesso lo stanno spacciando sotto le scuole, ma stiamo scherzando qua? E poi li prendono e cioè avevo 2 bustine addosso, cosa dobbiamo fare? Consumo come personale in galera? Anche noi siamo contrari alla galera, però purtroppo non ci sono strutture, c'è solo San Patrignano. Sì, sono anche altre comunità che io mi tolgo il cappello, per l'amor di Dio, però io dico mandiamo un ragazzo al CERT. Giustamente debbono esistere, va bene, però non hanno neanche loro soldi per tenere questi ragazzi in comunità, no, ma comunque, perché lo Stato non li dà. Certo, la sua posizione è molto chiara, le vorrei far sentire Perduca, Assunta Esposito dice da sempre noi combattiamo questa idea dei radicali di voler legalizzare, cosa si sente di dire la signora Assunta che invece dice ci vorrebbe più durezza, ci vorrebbero leggi col pugno pesante, non la possibilità di far trovare la droga più facilmente? Allora, la Fini-Giovanardi, che era una delle leggi più dure che abbiamo mai avuto sia in Italia che anche in Europa, ha favorito la distribuzione di tutte le sostanze, proprio perché non faceva più differenza, sul mercato italiano, e lo ha recentemente reso noto anche il CNR, che elaborava i dati in maniera seria e scientifica e non come faceva il Dipartimento guidato dall'onorevole Giovanardi e gestito dal dottor Serpelloni. Proprio perché chi, come diceva la signora, all'inizio ne prende un po' e poi ne prende sempre di più, siccome ha a che fare con un criminale e la droga è il bancomat della mafia, della camorra e di tutte le organizzazioni criminali, quindi da lì iniziano i soldi e da lì inizia il contatto con il cliente, gli si vuole vendere sempre qualcosa che o costa di più o dà eventualmente maggiore dipendenza. L'aver cambiato le leggi, e questa devo dire è veramente acqua di rose quella che è stata adottata ieri, sì. E speriamo che il Senato non la peggiori comunque, ha sempre fatto cambiare il contesto, per cui si fa da una parte informazione, perché in Italia il vero problema è il cosiddetto poliuso, cioè non soltanto una droga, l'uso di più droghe, sì, e molto spesso la miscela di droghe legali e droghe illegali, cioè ci si beve sopra, che sono shot di vodka su delle pasticche sintetiche che sono poi le nuove sostanze che girano tra i giovani, anche se il problema vero della droga ce l'hanno i cinquantenni, non ce l'hanno i dodicenni in Italia, questo è bene ricordarselo. Ma d'altra parte non considerare il problema come ordine pubblico ma come un problema sociosanitario. Sì. Ripeto, la vicenda triste della signora è accaduta in un contesto in cui viveva la Iervolino Vassalli, che era sufficientemente sì, altrettanto, guardi, proibizionista. Sì, però di questioni di leggi credo che la signora Assunta non è che ho capito, cioè, però purtroppo, cioè, la politica sì, serve a questo, no, bisogna governare dei fenomeni, sì, la questione individuale, per quanto triste possa essere, non può valere per 60 milioni di persone. Ma certo, però occorre ragionare io sui dati. Questo, no, ma la signora Assunta Esposito presiede appunto l'Associazione Nazionale Genitori Lotta alla Droga, e quindi ha una posizione anche che dalla sua esperienza personale ha tratto per avere anche una posizione di battaglia civile. Signora Assunta, però molti ascoltatori anche ci scrivono via SMS, se si legalizzasse si toglierebbe proprio quello spaccio che lei dice davanti alle scuole, cioè si toglierebbe la droga alla criminalità organizzata perché verrebbe controllata falso dallo Stato. Perché dice falso? Allora, se la droga, mi scusi, sì, avremmo la droga in mezzo alla strada, che loro fumano tranquillamente, e non è più erba, glielo dico a questo signore che sta parlando, non è più erba, perché sono le canne che mettono cocaina, eroina, metadone dentro, tutti i ragazzi sono esuefatti, tu vedi un ragazzino di 15 anni già tutto sfrenato, con il cervello in fumo, ma possiamo vedere le mamme questo scempio? Lo possiamo vedere, invece di combattere, di dire basta con la droga, noi glielo vogliamo dare a sti ragazzi, già non hanno lavoro, già le famiglie sono mortificate e tutto quanto, già noi abbiamo queste associazioni per tutta l'Italia e naturalmente lo Stato non dà niente, non dà niente, neanche un euro, perché noi ci dobbiamo gestire da noi. Sì, no, ma questo è chiaro, perché mi scusi, no, ma certo, signora Assunta, mi faccia sentire però, perché Paola Binetti è lei che ha detto falso, in realtà, onorevole Binetti, assolutamente falso. Io mi chiedo com'è possibile che davanti a una dimostrazione così sanguigna, così verace, così intensa come quella di questa mamma, che come giustamente lei ha fatto notare, dottor Milan, non è solo una mamma, ma è la rappresentante di tutti i genitori, com'è possibile che davanti a questo fatto noi dobbiamo in qualche modo anteporre una specie di antefatto teorico, che è l'idea che la legalizzazione sottrarrà alla criminalità questo commercio. Beh, e voglio soltanto fare un esempio. A me parrebbe, noi abbiamo però, legalizzato, parrebbe di buon senso dire così. No, cioè, no, scusi, senso, noi abbiamo legalizzato il gioco d'azzardo, sì, per sottrarlo alla criminalità e per ricavare dal gioco d'azzardo risorse che in qualche modo rientrano nelle politiche della fiscalità generale. I fatti ci dicono che il gioco d'azzardo criminale è in crescita. Ho capito, però onorevole Binetti, vuol dire che è uno Stato che non si fa rispettare. Se uno Stato regolarizza e mette delle regole e queste regole non si fanno rispettare, allora siamo allo sfascio, allora, nel senso che non siamo in grado di legalizzare e controllare nulla. Milan, siamo davanti a una legge nuova che pone delle responsabilità nuove in carico a chi forma e in carico a chi dovrà, dal punto di vista sanitario, accogliere questi pazienti, perché per noi sono pazienti, cioè per noi sono malati, noi abbiamo creato in questo modo dei malati, dobbiamo però curarli adeguatamente, con un personale adeguatamente formato, con risorse economiche che permettano davvero di venire incontro, come diceva la mamma, a esigenze di questi ragazzi che chiedono non solo di essere curati, ma chiedono poi anche di essere riabilitati e reinseriti positivamente nella società. Ecco allora che noi, come da un lato richiamiamo l'attenzione sul policonsumo, dall'altro dobbiamo richiamare l'attenzione sul fatto che se vogliamo aiutare questi ragazzi, compresi i 52enni a cui faceva riferimento collega Perduca, se li vogliamo aiutare davvero noi dobbiamo investire delle risorse positive e in modo multidimensionale. Non basta la legge sic et simpliciter, occorre tutto l'insieme degli strumenti che permetta di formare prima, di intervenire precocemente. La medicina i suoi progressi li ha fatti soprattutto quando è stata in grado di porre delle diagnosi precoci per fare degli interventi il più precoci possibile, quindi dobbiamo intervenire presto per aiutare la consapevolezza, per aiutare l'assunzione di decisioni in modo certamente libero, non sarà la repressione perché ti metto in carcere, ma sarà attraverso un lavoro profondo di consapevolezza che metta la persona in grado davvero ma su questo certamente guardate, è un tema talmente caldo, io mi scuso anche con Marco da Treviso ascoltatore, ma purtroppo non c'è tempo, il tempo corre sempre. Per il momento mi devo fermare ringraziando Marco Perduca, l'onorevole Paola Binetti e la signora Assunta Esposito, come detto presiede l'Associazione Nazionale Genitori Lotta alla Droga. Ma abbiamo un pochino limato di minuti di questo argomento perché dopo il traffico voglio già con noi salutare Gianni Tonelli, che è presidente del SAP, il sindacato di polizia, uno dei sindacati di polizia. Buongiorno Tonelli e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Ecco, perché siete nell'occhio del ciclone e delle polemiche. Sì. Per quello che è successo ieri, gli applausi agli agenti condannati per la morte di Federico Aldrovandi. Dopo il traffico sono da lei perché voglio capire cosa diavolo ci sia da applaudire, ci sia stato da applaudire ieri. Tra poco. Ecco qui Gianni Tonelli, segretario generale del SAP. Allora, vi hanno attaccato tutti, sì, moltissimi. Ce lo aspettavamo. No, guardi, però le dico subito. Allora, poco fa c'è Matteo Salvini in TV che dice io sto con i poliziotti. È una delle poche manifestazioni di solidarietà. Mi dica che cosa c'è da applaudire nei confronti di agenti che sono stati, voi potete pensare quello che volete, insomma, di solidarietà, certo, ma sono stati condannati in via definitiva per la morte di un ragazzo di 18 anni. Sì. Guardi, non ho nessuna difficoltà a dirle che consideriamo questa sentenza errata. Abbiamo fatto uno studio approfondito anche con studi legali su tutti gli atti processuali e abbiamo riscontrato che questa sentenza obiettivamente si basa su dei presupposti che non sono, non sono tali. Però non lo potete certo, decidere voi. No, insomma. Ma assolutamente, ma infatti però come non possiamo decidere noi, le sentenze vanno rispettate e infatti i colleghi hanno subito e patito gli effetti di questa sentenza che noi riteniamo ingiusta e figlia di un errore giudiziario. Credo che sia legittimo da parte nostra cercare di far accedere tutto il circuito mediatico e la cittadinanza mediante unicamente gli atti processuali a quella che noi riteniamo sia la vera verità, scusate il bisticcio, della vicenda. E penso che sia anche legittimo da parte dei colleghi nutrire il desiderio di poter avere un giudizio di revisione che l'ordinamento garantisce, d'accordo, e quindi di poter e noi da parte nostra di sostenerli in questo. Però Tonelli, le chiedo questo, voi lo sapete, c'è un ragazzo che è morto, ma è diamine, ma non è che si può considerarla una questione secondaria? Non è secondaria per nulla, voglio dire, sono di fronte a questo, voglio dire, al dolore di una madre, noi non abbiamo nulla da eccepire. Il problema è questo, non significa nulla perché confonderemo la verità con il pietismo. Vuol dire, se riteniamo che la sentenza che sia stata attribuita, tra l'altro gli viene attribuita una responsabilità colposa, e attorno alla vicenda sono girate un'infinità, anzi pressoché tutte, informazioni che processualmente con gli atti in mano sono poi risultate false. Allora, credo che si debba fare chiarezza, lo abbiamo scritto in un'ansia questa notte quando abbiamo visto la bufera che è nata semplicemente perché i colleghi sono stati certo, ma lei dice giustamente, le faccio solamente però mi scusi Tonelli, lei mi scusi, no certo, ma lei una sciocchezza non è un particolare secondario importanza, cioè il giudizio di revisione sul magistrato di sorveglianza che ha deciso sulla carcerazione o sulla sugli arresti domiciliari si sono espressi tre magistrati. Due hanno detto, hanno deciso in un modo sullo stesso fatto. Uno vabbè, ma questa allora ormai allora, devo dire Tonelli, mi perdoni. Sì, ma sì. La polemica ha superato gli effetti, la situazione dell'analisi della sentenza che voi portate avanti legittimamente a dire contestate questa sentenza. Lei dice solidarietà alla mamma che oggi dice di voi sono eversivi, mi hanno fatto piangere, mi fanno mi fanno ribrezzo. Abbiamo nausea alla madre, di fronte alla madre, di fronte al dolore di una madre, io non intendo, non l'ho mai fatto, ma quel dolore è stato provocato da quegli applausi, non è che è stato provocato da qui chissà cosa. Sì, voglio dire, io scusi, tutti i giorni muoiono delle persone sulle strade giovani, ma non per questo la colpa è delle strade. Voglio dire, se uno va e legge i fatti e gli atti processuali si rende conto che la causa della morte di Federico Aldrovandi vi sia non un ragionevole sospetto, ma qualcosa di più, compresi quelli che erano i consulenti tecnico d'ufficio della magistratura, per ritenere che le cause siano altre. Cioè? Chiaro che adesso fare un... Cioè, quali cause? Le cause sono ben altre, lei è consapevole di quello che... Me le dica, io non ho tutti gli atti processuali, cioè secondo... perché la sentenza dice una cosa, che le cause sono state questo arresto avvenuto in maniera non come deve avvenire un fermo di polizia. No, non è questo. Perché vedo, su questo vi è una confusione. Perché c'è stata una condanna? Sono decine e decine di migliaia. I colleghi sono stati condannati per eccesso colposo perché si è ritenuto che la posizione che è insegnata nelle scuole di tutto il mondo di polizia per fermare una persona che dopo aver assunto sostanze stupefacenti è in una situazione di non autocontrollo, ed è stata questa la causa per la quale una cittadina ha telefonato al 113, perché vi era un ragazzo che stava compiendo atti di autolesionismo, stava urlando e si stava facendo del male da soli. I colleghi sono andati, sono stati aggrediti. Vabbè, ma non è che dobbiamo riscrivere ciò che il tribunale ha scritto, però le chiedo questo, Tonelli, abbiamo due minuti. Alfano ha definito vergognosi gli applausi. Poco fa in TV, glielo dico in diretta, ad Agorà il vice ministro Bubbico ha detto: gli applausi sono un'offesa alla famiglia. Lei come risponde? Rispondo molto questo: il vice ministro e il ministro sono vittime, come tutti noi, di un'informazione che è stata completamente errata. È chiaro che questo è stato un processo che la difesa, voglio dire la parte della famiglia, la parte dei legali, è stato condotto più sui media che in processo. E loro sono vittime come noi. Se loro, e questo li sfido, danno mandato a loro legali, ai loro uffici legali di analizzare tutti gli atti processuali, io sono disponibile a qualsiasi confronto con loro e sono certo che, siccome sono persone intellettualmente oneste, non potranno fare altro che vabbè, ma voi temete cioè lei era lì, lei ha applaudito, era uno di quelli che ha applaudito convintamente. Sì. Cosa farebbe a questi agenti? Sì. Cioè, no, non mi nascondo dietro un dito. Non è chiaro. Semplicemente considero i colleghi condannati per errore giudiziario. Quindi stiamo proseguendo questa strada. Ci sono i presupposti, riteniamo noi, anche un domani, per riscrivere non solo la dinamica storica degli eventi mediatica, ma anche per riscrivere un'altra verità processuale, e stiamo proseguendo. Sì, è però sa, questo pensare... si fa una battaglia tramite avvocati, ma applaudirli in questo momento, cioè che segnale ha dato al paese che quattro agenti condannati sono stati applauditi? Le dico, le faccio la stessa analoga del giro: se un suo collega della sua redazione viene condannato ingiusto, e voi ritenete ingiustamente perché avete gli elementi per ritenerle tale, è un delitto condannarle e solidarizzare con loro? Tra l'altro in maniera spontanea. Mi dica l'ultima cosa, se teme, ma ho 10 secondi, qualche ripercussione dal capo della polizia, Panza. No, io questo assolutamente no, perché voglio dire, penso che la libertà di espressione ancora non sia in Italia messa in discussione, la libertà di pensiero e di manifestazione del pensiero. Se non siamo più in Italia neanche liberi di solidarizzare con un collega che riteniamo condannato ingiustamente, allora è meglio che chiudiamo la baracca e ce ne andiamo a casa tutti. Questo certamente, cioè la libertà di espressione c'è, ma chiaramente anche... Il dottor Passa, forse il prefetto Passa dovrebbe pensare che è il capo della polizia. No, ma è chiaro. Intanto la ringrazio, Tonelli, capo del SAP. Con lei chiudiamo, ci ritroviamo domani, siamo regolarmente in onda il 1° maggio, ma dalle 7:15, un po' più tardi.